Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Di solito l'insalata è un secondo, però noi cominceremo da qui. La usiamo come primo. Come primo. Come primo. Beh, adesso non si è capito niente, però ci sono i titoli e fra un po' vedrete che capirete. Benvenuti a Mebius. Il nostro ascoltatore Michelangelo si interroga sulla fisica dell'insalata. Perché quando faccio la scarpetta in una mistura di olio e aceto, la mollica di pane assorbe tutto l'aceto e pochissimo olio? James Randi, lo stupefacente Randi, è arrivato in Italia. L'illusionista erede di Houdini spiega come smascherare chi dice di avere poteri paranormali. Far provare la meraviglia di fronte alla scoperta e stimolare così l'interesse per la scienza. È questo l'obiettivo di Perché, il laboratorio della curiosità di Torino, pensato per i bambini. Dunque, l'insalata è al centro della nostra domanda. L'insalata era nell'orto. Però prima di passare alla domanda, lo sapete che io ci tengo a dare tutti i contatti per appunto entrare in contatto con noi. Allora, potete scriverci alla mail moebius@radio24.it. Ma ci trovate anche su Facebook e siamo Moebius Scienza con la I. Se volete twitterare c'è Moebius_online. E ora veniamo all'insalata, c'è portata principale del nostro menù di oggi. La domanda arriva da Michelangelo. Perché quando mangio l'insalata e faccio la scarpetta in una mistura di olio e aceto, la mollica di pane assorbe tutto l'aceto e pochissimo olio? Ecco, questa domanda è molto intrigante, sarà successa a tutti. E quindi noi... E l'insalatologo è Dario Bressanini, che in realtà è un chimico, ma è anche valido... Un esperto di scienza in cucina. Scienza in cucina, infatti. L'abbiamo qui al telefono. Buonasera, Dario. Ciao, ciao a tutti. Gli diamo tutti. Del tu, perché è un collega che vive sulle scienze. Ecco, allora, questa scarpetta come funziona? Allora, io personalmente confesso che uso solo l'olio per condire l'insalata. Comunque, quando facciamo la scarpetta in una miscela di olio e aceto, l'aceto è sostanzialmente acqua, in gran parte acqua. E l'acqua, prima di tutto, ha un'affinità migliore con il pane, perché il pane è sostanzialmente composto da amidi e proteine, e quindi a livello proprio chimico l'acqua si lega molto bene, questo lo si vede quando si fa un impasto, quindi c'è un primo motivo. Il secondo motivo è che possiamo considerare un pezzettino di pane come sostanzialmente una spugna. Ecco, cioè, infatti, è tutta porosa. Esatto, perché durante la lievitazione il lievito forma queste micro bollicine di anidride carbonica che poi vengono ingrossate durante la cottura, quindi tutta la struttura del pane è come se fosse una spugna, e quindi per un effetto, diciamo, come se fosse un effetto di capillarità, l'acqua sale più facilmente all'interno della spugna. L'olio è meno affine all'amido di cui è composto il pane ed è più viscoso, cioè scorre molto molto più lentamente. Quindi fa più fatica a salire, insomma. Esatto, un po' sale, ma non così tanto. Però dopo, una volta consumato l'aceto, poi sale anche l'olio. Sì, però non tutto, perché insomma lì le questioni sono anche un po' complicate, perché dipende anche dalla tensione superficiale dell'acqua e dell'olio, insomma le cose sono un po' complesse. Però sostanzialmente se noi modellizziamo il pane come se fosse una spugna, già possiamo capire intuitivamente il perché, insomma. E questo effetto viene anche sfruttato in cucina, mi viene in mente il pan di Spagna. Certamente, cioè le spugne, anche se normalmente in cucina non le chiamiamo così, sono molto, molto diffuse in pasticceria. Il pan di Spagna si forma appunto creando una spugna. In questo caso le bollicine non sono fatte da anidride carbonica, perché non si usa nessun tipo di lievito per fare il pan di Spagna, ma durante la lavorazione, quando sbattiamo le uova, inglobiamo dell'aria, delle micro bolle di aria, che poi in cottura andranno ad espandersi e quindi creano questo effetto spugnoso. Ed è per questo che il pan di Spagna è la base di moltissime torte, appunto perché ha questa grande capacità di assorbire dei liquidi, quindi ci si mette l'alchermes, ci si mette tutta una serie di liquidi aromatici. Perché non capivo perché ti viene in mente il pan di Spagna, ma perché è più poroso? Sì. Però a proposito di dolci, per lo stesso principio secondo me succede quel fenomeno fastidioso per cui quando uno intinge un biscotto nel tè, per esempio, nel caffè, si rompe. Questa volta si rompe facilmente, più che rompersi proprio si sfalda e cade nella tazza con grave danno anche a attorno alla tovaglia, eccetera. Sì, e i biscotti sono fatti anche col burro, sono di pasta frolla, per cui non hanno una struttura molto compatta quando li immergiamo nell'acqua e quindi non hanno un reticolo che è in grado di trattenere l'acqua come invece farebbe una spugna come il pan di Spagna, per cui crolla per una mancanza strutturale, diciamo così. Sì, a noi tutti crolla adesso ad Alberto, siccome usa dei biscotti di mezzo metro, succedono queste robe, sì, che poi, diceva che si rovina tutto. Senza andare sui dolci, la bruschetta stessa, quando si forma tutto il sughino della bruschetta, insomma, una meraviglia, lo sappiamo tutti, e il principio è lo stesso. Esatto, però i pezzetti di pomodoro cadono. Vabbè, però adesso qualcosa deve cadere, eh? Sì. Già che ci siamo, Dario, approfitto e anticipo una possibile domanda che potrebbe arrivarci, sempre sulla mistura aceto-olio. Sappiamo che, diciamo, sono quasi incoerenti, cioè non, è difficile mescolarli, oppure se appena li mescoliamo fanno finta di aggregarsi e invece poi si creano delle bolle incredibili. Perché? Beh, perché sono, diciamo, sono liquidi incompatibili, acqua e olio. L'olio è un grasso, ha delle lunghe catene, diciamo, chimiche di, come idrocarburi, che quindi non si mescolano. Quando si fa una vinagrette, si usa una miscela di una parte di aceto per tre parti di olio e bisogna agitarla. Nel giro di qualche decina di secondi le due componenti si separano normalmente. Ecco perché nella ricetta classica si aggiunge ad esempio della senape tritata, dei semi di senape tritati, perché questa dispersione di polvere contribuisce a un effetto emulsionante, cioè mantiene, diciamo, mescolate bene la parte acquosa, che è l'aceto, con la parte grassa. A livello industriale si usano invece delle sostanze specifiche, gli emulsionanti. Perfetto, grazie mille Dario. Grazie. Buon appetito quindi. Grazie. Buon appetito anche a voi. Lui. Grazie, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Signore e signori, Chiara Albicocco è stata a vedere James Randi, l'uomo che spiega perché non si possono piegare le forchette, anche se a me questo è una cosa che mi ha molto deluso. Lo stupefacente Randi. James Randi in un teatro, in tanti teatri italiani, contemporaneamente. In tanti cinema italiani, ha fatto una grossa diretta via satellite la settimana scorsa, però lui era in diretta qua a Milano al Cinema Odeon e io non mi potevo sottrarre, sono andata a conoscerlo. E lui è un grande demistificatore di... Sì, è un grande prima di tutto illusionista. E poi quando ha smesso, insomma, di uscire da scatole piene di acqua, di buttarsi dalle cascate del Niagara, ha deciso di dedicarsi in tarda età a smascherare i cialtroni, e devo dire con grandissimo successo mondiale. E voilà, iniziamo allora. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. C'è lo stupefacente Randi. È una grande idea! E chi è lo stupefacente Randi? Il primo e più bravo mago del mondo. Il primo e più bravo mago del mondo. Coraggio, Ralph, aiutami! Che sto facendo? Forza! Buongiorno, giovani, sono lo stupefacente Randi. Ah, sì? Voglio vedere i documenti. Pozzi! Salve, signor mago, io sono Ricky Cunningham. Mi scusi tanto, ma perché è appeso a testa in giù in una camicia di forza al 14° piano di un albergo? Perché sono le due. Ah! Io lo faccio tutti i giorni per tenermi in forma. Oh, sono quello di cui Arthur Fonzarelli le ha parlato prima. Oh già, il giovanotto con gli orfani. Ah beh, sarà un piacere fare uno spettacolo per voi. Ehi, fantastico, senta, io ho un contratto qui, ma non credo che lei possa firmarlo adesso. Comunque lo lascio sulla scrivania. Ah no, ragazzo, no, io ho una penna proprio qui. Oh, beh, perfetto, ecco, firmi pure qui. È fantastico. Io non saprei mai firmare a testa in giù. Oh beh, tante grazie, signor mago. Di niente. Ci vediamo, Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Working all week with you. In questo celeberrimo episodio di Happy Days, il telefilm cult degli anni Ottanta, James Randi, The Amazing Randi, l'entusiasmante Randi, interpreta se stesso. Sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all I can. Questo è uno degli indici del suo successo. Richard Dawkins, addirittura grande scienziato, ha grande stima di Randi. Le persone come Randi svolgono un compito importante, smascherando imbroglioni e charlatani. Il

lui lo suona senza problemi. Però ci deve spiegare come fa. In pratica lui converte un file in formato elettronico, quindi MIDI, in movimento meccanico, quindi impressione del tasto attraverso una serie di una parte elettronica che fa la conversione da digitale a analogico e poi l'attuatore vero e proprio che fa lo spostamento del dito, la pressione del dito. Sì, forse è il caso di descriverlo per gli ascoltatori che non possono vederlo come è fatto, nel senso che lei dice muove le dita ed è vero. Sì, diciamo che ha le sembianze umanoidi, bara perché al posto di avere 10 dita ne ha 29, questo è un po' il suo elemento caratteristico. Da un lato gli dà molta più flessibilità e per alcune cose, soprattutto in velocità, potrebbe battere anche una persona umana, però non è questo assolutamente lo scopo, anzi la musica è sacra, va interpretata, ha un'anima, cosa che i robot non potranno mai. Diciamo che l'importanza è avere un po' la robotica al servizio dell'intrattenimento. Qui si sta giocando, si sta intrattenendo gente, è una cosa per divertirsi, insomma. Però Teo canta anche, quindi ha una bocca, ha un viso simpatico. Sì, diciamo che ha un riconoscimento vocale, quindi è in grado di interagire con le persone, può rispondere a alcune domande semplici e poi niente, può seguire i movimenti delle persone perché è dotato di sensori appositi. A che tipo di domande può rispondere? Come si chiama, quanti anni hai, da dove vieni. Quali sono le applicazioni di un robot di questo tipo? Diciamo che sì, lui è nato per l'intrattenimento, quindi feste, eventi, cose di questo genere. Poi ultimamente ho iniziato una collaborazione con un pianista di fama mondiale, Roberto Prosseda si chiama, quale teneva delle lezioni concerto a teatro dove spiegava appunto la differenza tra la musica interpretata e la musica finta, quindi quella dei computer. Quindi mi ha trovato su internet e gli sono capitato a fagiolo perché insomma era proprio quello che cercava. Quindi questo spettacolo, quindi l'uomo e il robot, e lui, Roberto Prosseda, fa interpretare un brano al pianista robotico e poi lo reinterpreta lui con tutte le varie sfumature e spiega le differenze del... Teo nasce dalla collaborazione con un'altra società, che è la Morsetti Italia, di cui abbiamo qui il general manager, che è Filippo Codara. Sì. Fuori onda mi ha confessato che ci potremmo fare anche uno studio sociologico su Teo, perché attira molte ragazze, molte donne. Sì, verissimo. Verissimo, verissimo. È stato abbastanza divertente vedere questa cosa perché abbiamo dovuto constatare che è un rubacuori Teo, è un rubacuori e ieri ha spopolato nei confronti delle ragazze. Allora resta sul tavolo la domanda, ma perché Teo attira le ragazze? Gli uomini no, o gli uomini sono più interessati alla parte tecnica? Gli uomini guardano la parte meccanica, si fermano a dire che è bello, interessante, carino, ma per le ragazze è un'altra cosa, è completamente un'altra cosa. E adesso l'automazione pensata per l'industria, ma liberamente ispirata alla perfezione della natura e degli animali. Sì, sono Giorgio Crepaldi, marketing manager in Fest Italia. Ok, siamo qui al Salone dell'Automazione e un gabbiano sta per prendere il volo. Malbird è un gabbiano di robotico, ha un peso di 450 grammi, costruito principalmente in elementi in Kevlar all'interno, ha una struttura esterna di un materiale similare a quello delle vaschette del supermercato degli alimenti, per cui molto leggero, e grazie a queste capacità può poi in modo meccanico volare. In questo momento sta per decollare, il decollo è manuale perché non siamo riusciti così ad allestirlo. Ecco che vola, ha questo movimento generato all'interno da due servomotori che comandano il battito delle ali, ha un'apertura alare di circa 2 metri e veleggia all'interno proprio come un vero gabbiano, seguendo proprio il movimento dell'ala battente del gabbiano, perché non è semplicemente un battito d'ali, ma l'ala ha anche una rotazione per essere sostenuta dal peso stesso. Allora, devo dire che è veramente impressionante, lo stiamo vedendo, si comporta esattamente come un gabbiano normale, cioè la figura che si staglia è esattamente identica ad un gabbiano normale. A che cosa serve? Ma il nostro concetto è quello di avere questa divisione di bionica che si integra nel mondo animale, nel mondo della natura, per scoprire dal mondo animale come poi possono essere risolti e applicati poi in modo industriale tanti concetti, come in questo caso l'utilizzo di materiali leggeri che permettono il volo, i servomotori all'interno sempre più leggeri per permettere poi sulle macchine industriali un'applicazione reale. Ecco, stiamo sentendo gli applausi perché è planato ed è tornato a terra. Ha un'autonomia di circa 20 minuti perché anche in questo caso la batteria interna deve essere realmente leggera e ha una batteria similare a quella di un cellulare. Ecco, allora andiamo con ordine. Come funziona? Com'è possibile appunto telecomandarlo da terra? Il comando viene generato così come un aeromodello che comanda i due motori, per cui ha la capacità l'aeromodello, il telecomando, di generare più forza sui servomotori interni, di conseguenza regolare il battito d'ali. Poi una volta dipende dalle condizioni atmosferiche, perché essendo così leggero il vento influisce molto sulle prestazioni. Qui con queste caratteristiche il telecomando genera la velocità sui servomotori interni che danno poi il battito d'ali e lo fanno sostenere. Questo modello o eventualmente un possibile modello futuro sarà implementato con determinati sensori, telecamere, con visione dall'alto e per applicazioni future? Questo modello è già predisposto per un controllo a remoto a distanza. Infatti una delle nostre capacità è quello del condition monitoring, della diagnostica a distanza, che è uno anche delle possibilità per poter dialogare con macchine in controllo remoto, in macchine in wireless, per cui conosciamo le condizioni a bordo dello Smart Bird, capiamo esattamente quelle che possono essere l'azionamento dei motori, le condizioni del vento e le condizioni di temperatura grazie a dei sensori che sono applicati all'interno. Qui c'è questa possibilità di remotare a distanza, avere le condizioni di funzionamento dello Smart Bird del gabbiano. Quanto costa un prototipo di questo tipo? È come chiedere quanto costa una Formula 1, non hanno un prezzo perché c'è dietro lo studio, la ricerca e sviluppo, per cui è difficile dire quanto sono costati i materiali, perché riuscire a trovare strutture in Kevlar è come chiedere quanto costa un alettone di una Formula 1, non hanno un costo. E con Eva Bigi, sempre di Festo, responsabile della comunicazione, continuiamo questo discorso all'ispirarsi, come dire, alla natura per studiare e progettare nuove tecnologie innovative. Cos'altro avete fatto oltre allo Smart Bird, che è la vostra ultima novità? Esatto. L'idea di ispirarsi alla natura in casa Festo è nata più o meno nel 2005, quando abbiamo pensato che i modelli più perfetti erano quelli della natura. E quindi abbiamo iniziato a studiare i pesci con le pinne caudali, cioè i loro movimenti. Poi abbiamo studiato la manta per il tipo di epidermide, abbiamo studiato i pinguini, abbiamo studiato la proboscide dell'elefante, che è uno dei risultati che ci hanno consentito di passare dalla teoria alla pratica, perché proprio dallo studio approfondito della proboscide e delle sue capacità prensili abbiamo creato questo braccio bionico che alla sua estremità ha proprio una pinza adattiva che è già entrata in produzione FESO ed è entrata nella gamma dei prodotti standard per la sua leggerezza e per la sua compattezza, ma anche la sua estrema capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di oggetto. E quindi questo è stato per noi anche un risultato di dimostrare come dalla teoria si può poi passare alla pratica e quindi avere dei prodotti utili già da proporre ai nostri clienti. Ecco, nel caso della proboscide è proprio un braccio robotico che ha una specie di pinza e anche quel meccanismo che ha la proboscide di, come dire, aspirare. Di aspirare, esatto, ha delle capacità di tenuta del pezzo, di adattamento al pezzo. Il braccio di per sé è composto da tre parti, naturalmente, che gli consentono poi un'estrema capacità di movimento anche in situazioni dove c'è poco spazio, eccetera. Questo braccio bionico poi attualmente lo stanno anche studiando per ambienti o particolarmente difficili per l'uomo o dannosi per l'uomo, oppure anche proprio come supporto in ambiente medicale, in agricoltura, e gli studi vanno proprio anche verso questi nuovi settori, questi nuovi campi applicativi della tecnologia dell'automazione. Uno spazio qui in fiera è stato dedicato alle università e al trasferimento tecnologico, quel passaggio importante che mette in comunicazione ricerca ed impresa. siamo qui nell'area Linking University insieme a Umberto Scarcia, che è del laboratorio di automazione robotica dell'Università di Bologna. Allora Umberto, intanto ci devi spiegare che cosa abbiamo davanti. Una mano robotica con polpastrelli, con tendini e quant'altro. Raccontaci che cos'è e che cosa avete progettato nel vostro laboratorio. Nel nostro laboratorio ci occupiamo da 25 anni della progettazione di mani robotiche antropomorfe per applicazioni industriali. Abbiamo partecipato a un progetto europeo per lo sviluppo di una mano robotica e in questo caso vediamo una mano a 17 gradi di libertà, quindi abbiamo 5 dita, ogni dita 3 gradi di libertà. Che significa? Che si possono diciamo piegare in tutte le falangi intanto? Come le mani umane abbiamo in ogni dito 3 giunti snodabili, quindi abbiamo la possibilità di piegare il dito come noi facciamo e quindi raggiungere delle performance di manipolazione di presa simili a quelle che ci competono. Il tutto mosso da dei fili che rappresenterebbero i tendini, diciamo, naturali. La nostra politica è quella di utilizzare dei tendini così come avviene nel nostro corpo e questi tendini sono movimentati da servomotori che controlliamo tramite un'interfaccia. Ecco, sì, qui gli ascoltatori non lo possono vedere, ma è praticamente tutto collegato al tuo portatile e tu dal portatile riesci a dare i comandi e a decidere quale dito muovere e anche quale falange di quale dito muovere. Questo tipo di automazione, questo tipo di mano, che tipo di applicazioni può avere? L'ingombro non è piccolo, quindi non può essere utilizzata come protesi in ambito sanitario, ma può essere utilizzata, cioè il vostro obiettivo è quello che venga utilizzato in ambito industriale. Sì, il nostro target, diciamo, è l'applicazione sia in ambito industriale, come dici tu, anche per robotica di servizio. Infatti nel futuro si avranno dei robot che potranno utilizzarci a fare delle operazioni che oggi siamo abituati a svolgere, ma magari la maggior parte di noi vorrebbe iniziare a non fare più, come per esempio riordinare la casa o pulire i piatti, la cucina e queste cose qui. La cosa molto interessante è che voi ci lavorate dal 1988, siete riusciti a creare questo modello tra virgolette economico, nel senso che altissima tecnologia però ad un costo abbordabile. Sì, la frontiera, diciamo, della robotica al giorno d'oggi è quella di semplificare i concept che si sono sviluppati negli anni e di sfruttare le potenzialità che la tecnologia offre al giorno d'oggi. Quindi riducendo i costi e aumentando la semplicità e l'affidabilità di questi dispositivi. Possiamo avere un'idea del costo di questo? Allora, le mani robotiche al giorno d'oggi in commercio costano sui 100-120 mila euro. Noi pensiamo di poter vendere il nostro dispositivo a un prezzo nettamente inferiore, che si possa girare sui 10-15 mila euro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Si è aperto a Torino uno Science Center, un museo interattivo dedicato però ai bambini, ai piccoli. Alberto Agliotti è andato a visitarlo, però io qui vi dico e vi ricordo che in questo weekend il centro, che normalmente è aperto soltanto per le scuole, è invece aperto a tutti, a largo pubblico. Ma sentiamo Alberto Agliotti. Siamo nel cuore di Torino, siamo a due passi dalla Mole Antonelliana e siamo di fronte a un grande interrogativo. La domanda è: perché? Ed è proprio scritta qui davanti a noi sul muro. Allora chiediamo a Piero Bianucci, che è qui e che salutiamo. Buonasera. Chiediamo di spiegarci il perché di questa domanda, visto che lui è responsabile della scritta sul muro. È una domanda sulla domanda, quindi una metadomanda, e io ne aggiungerei ancora una: questo perché è scritto con un punto interrogativo alla rovescia. Quindi dovrebbe essere questo veramente l'aspetto che ci deve interessare. Il punto interrogativo alla rovescia deve suscitare curiosità. Difatti il sottotitolo di questo perché è laboratorio della curiosità, un posto dove vengono dei bambini, normalmente dai 5 agli 11-12 anni, fanno una serie di esperimenti scientifici, si incuriosiscono, speriamo, si meravigliano e alla fine escono con la voglia di continuare a imparare qualche cosa di scientifico. Allora direi entriamo nel merito, anzi entriamo nell'edificio, e andiamo a visitare. Andiamo. Il mio nome è Amedeo. Il cognome? Avogadro. Avogadro, perché vengo da una famiglia tutta di avvocati. Piero, che ci fa qui Amedeo Avogadro? Che ci fa Avogadro e soprattutto che ci fa in questa cantina, che è la cantina di Perché? Sta in un armadio interpretato da un attore e intorno ci sono degli altri armadi. Non ci sono qui scheletri, però ci sono scienziati. C'è Lagrange, per esempio, c'è Bizzozzero che ha scoperto le piastrine del sangue. Insomma, qui l'idea è quella di far conoscere ai bambini e ai ragazzi le radici della scienza e non solo, però. L'idea è quella di far conoscere le radici della scienza, ma soprattutto di far capire che la scienza è una corsa a staffetta, nella quale ogni scienziato passa il testimone a quello della generazione successiva. La scienza quindi corre, ma in questa corsa non arriva mai, perché non è che la scienza voglia e possa arrivare a delle verità, arriva a delle verifiche di alcuni fenomeni che poi si prestano ad applicazioni anche molto utili, ma ci sarà sempre uno scienziato che andrà oltre, e questo andare oltre della scienza è proprio la sua caratteristica ed è, credo, anche il motivo per cui è così interessante e curiosa. Piero, abbiamo sentito una serie di suoni diversi camminando semplicemente su un tappeto, adesso di colpo non sentiamo più niente, anzi. Siamo entrati in una camera anecoica dove si cerca di fare il silenzio assoluto, non è facilissimo, ma insomma ci si avvicina. E nel silenzio assoluto abbiamo una percezione del nostro corpo molto diversa da quella abituale, quindi i visitatori di Perché, i bambini, che poi non dovrebbero essere chiamati visitatori, ma quelli che vengono qui a fare gli esperimenti. I curiosi. I curiosi provano appunto questa esperienza singolare e prima invece hanno sentito con le loro orecchie una serie di suoni della natura oppure di suoni artificiali, campane, note musicali, e quindi cominciano a prendere coscienza dei loro sensi, in questo caso dell'udito. Perché infatti siamo nella sezione dedicata ai sensi. Siamo nella sezione dedicata ai sensi, che parte proprio intanto dagli inganni dei sensi, quindi dalle illusioni, quelle globali in cui tutto il corpo viene ingannato. Abbiamo una stanza inclinata in cui il corpo viene ingannato globalmente perché viene falsificato la nostra percezione dell'essere su un piano. Poi naturalmente la vista, che è molto approfondita. Qui più difficile è lavorare invece sull'odorato, sull'olfatto, più difficile è lavorare sul gusto, invece molto si può fare sul tatto, e difatti poi uscendo dalla zona della vista si entra in una specie di labirinto buio dove si perde la vista, ma ci si orienta toccando le pareti, che hanno una caratteristica via via diversa, ora più scabra, ora più liscia, e guida lentamente il bambino fino all'uscita da questo labirinto. I bambini che restano fuori vedono però quelli che brancolano nel buio del labirinto attraverso delle telecamere a infrarossi, e quindi c'è anche un po' la scoperta che esistono delle radiazioni che i nostri sensi non percepiscono, ma che invece tecnologicamente possiamo mettere in evidenza. Una volta che abbiamo imparato che il mondo esiste e che lo percepiamo, insomma, è importante capire come fare a misurarlo, a quantificare le grandezze che ci troviamo di fronte. Certo, sia per motivi pratici, commerciali, sia per motivi scientifici. Quindi in questa parte di Perché sono rappresentate le 7 misure fondamentali del sistema internazionale. Si incomincia con la misura di massa e quindi anche di peso, sono due concetti diversi, quindi si cerca di dialogare con i bambini per far venire fuori questa differenza. La massa di un bambino è sempre uguale, ma il suo peso cambia se lo pesiamo sulla Luna o sulla Terra o su Marte, ed è questa l'esperienza che fanno. Si può scoprire la misura di tempo, anzi in questo momento siamo proprio nella stanza del tempo. Qui abbiamo un pendolo, abbiamo degli orologi atomici, e poi andando nelle altre stanze troviamo misure di elettricità, di luminosità, troviamo misure di quantità di materia, molto importante per la chimica, e infine misure di temperatura. Le misure di temperatura sono collegate anche a una stazione meteorologica che ci permette anche poi di dare dei concetti di statistica, di media, e spiegare come si fa per esempio il grafico della temperatura di un mese, della temperatura di un anno, la media dell'anno e così via. Come si fa a raccontare la scienza ai bambini? Guarda, la prima cosa da fare è questa. Com'è? Così. Piero si è seduto per terra, lo raggiungo. Sì, la prima cosa è mettersi all'altezza dei bambini, in due sensi. Prima di tutto quello fisico, guardarli negli occhi, perché se non c'è il contatto oculare non c'è neanche lo scambio, diciamo, delle intelligenze, no? Tra la nostra e quella dei bambini. Ammesso che noi ne abbiamo uno. Ammesso che loro sicuramente però ce l'hanno, quindi forse il meccanismo funziona da loro verso di noi. Bisogna mettersi alla loro altezza anche come capacità di ragionamento e per quelle che sono le loro domande, le loro curiosità. Quindi bisogna partire da una domanda che spesso il bambino esprime, per fortuna. Quando non la esprime, bisogna provare a intuirla e verificare se è la domanda davvero che il bambino si poneva. Abbiamo cambiato ancora piano e stanza e questo che ci è venuto incontro è un robottino, una specie di cagnolino robot. Sì, è la stanza dell'informatica, quindi anche della robotica. I bambini smontano dei piccoli robot, poi li rimontano, li programmano in modo che abbiano tre sensi attivi: il senso della vista, quindi si riprende il discorso, il senso del tatto e il senso dell'udito, perché partono battendo le mani. E invece l'altra stanza, quella verso cui stiamo andando adesso, è la stanza della matematica, e lì naturalmente fanno dei giochi matematici, montano delle strutture che hanno una logica geometrica e così via. Ed è la stanza che spaventerebbe di più qualunque adulto. E invece si divertono moltissimo proprio in quella stanza, e credo che questo sia una cosa importante, perché come sappiamo l'Italia dal punto di vista della matematica non funziona molto bene nelle competizioni internazionali. Della matematica e delle vocazioni scientifiche in generale. Infatti abbiamo facoltà scientifiche che faticano a trovare iscritti, adesso però c'è già una lieve inversione di tendenza e speriamo che continui. Noi qui con la Fondazione per la Scuola e con Perché lavoriamo proprio per moltiplicare queste vocazioni. L'idea qua è far provare questa esperienza a tantissimi bambini, che sono già più di 10.000 da quando è aperto da pochi mesi. Quindi insomma, ecco perché. Ecco perché. Sentite adesso che cosa vi racconta Chiara Albicocco. Reatec è la fiera, evento per il mondo della disabilità. Lo spazio propone idee e soluzioni per un mondo più accessibile per tutti. Tra le proposte abbiamo individuato un'applicazione innovativa che consente anche a chi ha gravi problemi di udito di andare al cinema ed assistere a qualsiasi proiezione. Si chiama Movie Reading ed uno dei suoi inventori è qui con noi questa sera. Benvenuto Carlo Caffarella. Buonasera. Ecco, ci deve spiegare innanzitutto che cos'è Movie Reading. Sì, dunque, molto semplicemente Movie Reading è un'app per cui basta caricarla gratuitamente sul proprio telefonino, sul proprio smartphone o tablet di marca Apple oppure con sistema operativo Android. Una volta scaricata quest'app sul proprio dispositivo posso scegliere in che lingua voglio leggere i sottotitoli del mio film preferito e da quel momento, dopo averli scaricati, posso andare in qualsiasi cinema a godermi il film e leggere i sottotitoli nella lingua scelta. Ecco, lei giustamente dice qualsiasi proiezione, quindi com'è possibile che succeda questo? Sì, e questa è proprio la nostra invenzione, perché Movie Reading non richiede che il cinema abbia apparecchiature particolari che si interfaccino con la nostra applicazione, perché abbiamo inventato una tecnica per cui basta far ascoltare al dispositivo qualche secondo, qualche frammento di audio ambiente, perché il dispositivo capisca in che punto esatto del film io mi stia trovando in quel momento e quindi posso sincronizzare correttamente i sottotitoli, sia che il proiettore del cinema sia digitale che ancora tradizionale a pellicola. Allora, le cose interessanti sono tante, ma andiamo per ordine. Mi fa vedere i sottotitoli in qualsiasi lingua, cioè è multilingua, quindi posso scegliere la lingua che preferisco. Anche se mi trovo all'estero posso scegliere la mia lingua, oppure se voglio esercitarmi con lo spagnolo e l'inglese posso guardare altre lingue, quindi utile anche forse per gli stranieri. Assolutamente sì, noi crediamo che sia estremamente utile sia per la popolazione sorda, ma soprattutto per la popolazione straniera, che sicuramente è molto più numerosa. Devo precisare soltanto che i sottotitoli disponibili sono quelli appunto che noi abbiamo realizzato nelle varie lingue, quindi potenzialmente si potranno trovare in qualsiasi lingua, anche se in questo momento trovo i sottotitoli nelle principali lingue europee. Ecco, d'accordo. Allora, diceva, è gratuita l'applicazione? L'applicazione è gratuita. Quando io acquisto la traccia sottotitoli che mi interessa, spendo un euro e mezzo, però questo euro e mezzo lo posso recuperare quando acquisterò il biglietto del cinema, perché andando in uno dei tantissimi cinema che fanno parte del nostro network, che si chiama Cinema Amico, sul nostro sito si trova l'elenco, e presentandomi alla cassa col mio smartphone e con la ricevuta d'acquisto dei sottotitoli, riesco ad acquistare un biglietto scontato piuttosto che un biglietto interno. Quindi diciamo viene compensato. Esattamente. Ultimamente c'è anche una novità, avete messo a punto un sistema degli occhiali speciali che appunto permettono di non leggere i sottotitoli sul proprio telefonino, sul proprio tablet, ma direttamente come se fossero sullo schermo. Sì, questa è una grande novità perché modifica notevolmente la fruibilità del sistema. È vero che comunque al cinema leggerli dallo smartphone o da un tablet non è complicatissimo, perché basta andare molto in fondo alla sala, la linea ottica a quel punto che io tengo per leggere i sottotitoli e per vedere il film è quasi la stessa, per cui è sufficientemente comodo. Certo però che con degli occhiali elettronici l'esperienza è completamente diversa. In questo momento abbiamo interfacciato gli Epson Moverio, i nuovissimi occhiali già disponibili della Epson, e poi via via interfacceremo anche gli altri. Google ha anticipato l'uscita dei propri e sicuramente questi saranno dei gadget che saranno molto presenti nei mesi a venire. La visione praticamente è identica come quando siamo abituati a vedere i sottotitoli sotto lo schermo, insomma non abbiamo nessun fastidio, nessuna modifica diciamo della visione regolare del film. Oserei dire che è migliore con gli occhiali perché posso scegliere la dimensione dei sottotitoli, quindi in funzione della mia distanza dallo schermo, posso scegliere la posizione dei sottotitoli, quindi non necessariamente averli sotto, ma posso metterli anche sopra, al centro, dove voglio. E in più, se sposto la testa perché magari sono molto vicino allo schermo, quindi devo spostare gli occhi o spostare la testa per seguire le immagini, i sottotitoli mi seguono e quindi sicuramente non perdo neanche una parola. Dove possiamo trovare tutte le indicazioni? Beh, sicuramente sul nostro sito www.moviereading.com. Va bene Caffarella, grazie e buon lavoro. Grazie. E questa puntata, nella quale avete appreso la fisica della scarpetta con olio e aceto, questa puntata si chiude qui. Buona settimana a tutti, appuntamento con Möbius fra 7 giorni.